Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E benvenuti a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che, come sa chi ci segue, cerca sempre di collegare quello che è stato con la nostra attualità per capire anche la dimensione dei diritti di cittadinanza. In questo senso, come CRAP si è organizzato nel settembre scorso questa iniziativa che recitava Alberto Manzi, 100 anni, insegnare per dare libertà, presso la Casa dei Pensieri. Erano presenti alcuni ricercatori che ben conoscono la figura di Manzi, come Patrizia D'Antonia, Roberto Farnè e Mirella D'Ascenzo del Dipartimento di Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin. Il tutto era introdotto dalla scrittrice Silvia Albertazzi. Cercheremo allora nelle nostre puntate di riportare quei ragionamenti che sono interessanti sicuramente proprio alla luce dell'oggi e cominciamo con Mirella D'Ascenzo che inquadra Manzi nel suo tempo, cioè nel dopoguerra, fino all'arrivo del Non è mai troppo tardi. Dopo lo stacchetto musicale a lei la parola. Sicuramente uno dei personaggi del mondo della scuola più conosciuti a livello nazionale, insomma, e anche internazionale, uno dei maestri sicuramente più noti, grazie anche alla sua presenza televisiva, forse ingiustamente troppo noto, nel senso che anche altri maestri in quegli anni del secondo dopoguerra hanno agito con diversa levatura, diversi intrecci, diversi impegni, eccetera, ma altrettanto importanti per il rinnovamento della scuola italiana. Pensiamo ai Mario Lodi, quello di CP, per intendersi, no? Ma anche a Bruno Ciari, di cui in questi anni abbiamo anche festeggiato il centenario della nascita, dicevamo. Ma anche perché, del resto come gli altri, ha attraversato l'Italia del fascismo, perché è nato nel 1924, e del secondo dopoguerra, quindi degli anni 50, 60, 70, 80, ed è morto nel 97. Quindi davvero una stagione, quella italiana, molto densa di avvenimenti, di cambiamenti anche. Un'Italia che usciva dal fascismo e che nel secondo dopoguerra si trovava in una condizione di difficoltà dovuta alla distruzione e quindi alla necessità di una ricostruzione materiale e anche morale del paese. Un'Italia in cui veniva emanata la Costituzione, i suoi articoli sulla scuola anche, e quindi la democrazia, e quindi la libertà anche di insegnamento, tutti valori nuovi rispetto al mondo fascista, al periodo fascista in cui Alberto Manzi era nato, vissuto ed era andato anche a scuola. È un'Italia quella degli anni 50, un minimo di contesto per poi dare un senso anche alla sua azione, no? È un'Italia quella degli anni 50 in cui il piano politico c'è una forte contrapposizione, sono una contrapposizione politica molto forte fra i cattolici, la Democrazia Cristiana e il mondo laico, soprattutto comunista, ma non solo. Pensiamo solo a Don Camillo e Peppone, che ce lo racconta, quei film ce lo raccontano benissimo. E quindi una contrapposizione fortissima, arrivano anche gli aiuti dall'America, dagli Stati Uniti, del piano Marshall, che aiutano anche la ricostruzione materiale delle scuole anche distrutte, degli edifici distrutti. Ed è un'Italia che si avvia verso una ricostruzione, anche un grande entusiasmo, con voglia di fare anche qualcosa di nuovo e di diverso da un lato, e dall'altro anche ci sono molte continuità e molte persistenze di cui oggi abbiamo anche una certa eredità, possiamo dire, anche sul piano culturale e politico. E in quel periodo vi è, diciamo, la rinascita anche economica, con lo slancio, poi il boom industriale, il grande boom, la rinascita verso la fine degli anni 50, in un paese che sta conoscendo una grande trasformazione anche di tipo sociale, perché negli anni 50 inizia anche l'immigrazione interna dal centro-sud dell'Italia verso il nord, il triangolo economico, il triangolo industriale, che attira appunto verso nuove speranze per buona parte della popolazione del centro-sud che viveva in condizioni difficili. E quindi anche un grande cambiamento, l'abbandono delle campagne, l'abbandono delle montagne verso le grandi città. Sono tutti cambiamenti importanti che arrivano appunto dagli anni 50 e 60 e che vedono anche un dibattito interno nel mondo della scuola. La scuola italiana nella Costituzione, nel suo assetto, nella sua architettura non è cambiata, quindi è una scuola che ha una scuola elementare, non da tutti però era stato conseguito anche il titolo, e una scuola fino ai 14 anni, cui obbligo era peraltro sancito già prima dalla riforma Gentile, paradossalmente, ma sappiamo che non era completamente stato assolto la larga maggioranza della popolazione. E anzi, negli anni 50 uno dei fenomeni più battuti, veramente grande, era quello dell'analfabetismo e anche dall'analfabetismo adulto. Su questo anche il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministro Bonella, si spende moltissimo con la nascita della Scuola Popolare per la Lotta all'Analfabetismo Adulto, gratuita, serale o diurna, del 47, e lanci una prima battaglia, l'analfabetismo adulto, su cui Alberto Manzi poi lavora non inizialmente in Italia ma paradossalmente all'estero. Questo è un tema molto importante che viene affrontato, così come anche una proposta di riforma della scuola che non va in porto. E anche l'altra questione in avanti è quella di un'Italia che conosce dal punto di vista scolastico un dibattito che viene dall'associazionismo che rinasce. L'associazionismo docente, magistrale, vede la rinascita, in particolare la nascita di un nuovo movimento nel 1951, che è il movimento di cooperazione educativa con Giuseppe Tamagnini a Fano, e quindi questo movimento ha una grande influenza su che cosa? Sul rinnovamento della didattica ispirata a Célestin Freinet, ma di una didattica che intreccia anche la necessità di un cambiamento politico e pedagogico e di gestione della scuola e dell'aula e della didattica. Quindi Mario Lodi, Bruno Ciari, per far dei nomi, combattono contro che cosa? Combattono contro la scuola tradizionale, la scuola dei banchi di legno riposto, disposti frontalmente, dell'autorità del maestro dietro la cattedra, sopraelevata sulla pedana predella, quindi quella scuola tradizionale che era precedente il fascismo, ma che il fascismo aveva in qualche modo stigmatizzato ancora di più, che è la continuità, la scuola tradizionale che ancora adesso affascina e per certi aspetti c'è anche un, possiamo dire, un certo ritorno, anche se non ci sono più banchette, ma un certo tipo di stile. In quella scuola c'erano anche le bacchette, le punizioni corporali, e c'era uno stile, un modo di fare insegnamento che era, possiamo dire, anche indipendente dall'apprendimento reale. Che barba queste scuole! Che barba! Che abitudini incivili! Incivili! Talon, sia un'ora criminale! Devi essere puntuale, che se no non entri più! Non entri più! Non entri più! Non entri più! Non entri più! Acque, tiranno del maestro! Tiranno! E scorre il dito sul registro! Registro! E quel dito ormai è un capestro, se ti interroga è un disastro, di sicuro prendi tre. Tu prendi tre, tu prendi tre, tu prendi tre, tu prendi tre. E ti devi a memoria, studia la storia, che pena e che malinconia. La geografia, l'odio, poi d'italiano. C'è persin componimento. Che avvenimento. Che galera! È una galera questa! Studi come un matto, da matto, e non sei buono, fermo e zitto, e zitto. Brutti voti avrai in condotta, brutti voti avrai in profitto, e saranno guai per te. Son guai per te, son guai per te, son guai per te, son guai per te. Poi ci ricredi. già finita e non si fa in tempo che a mangiare il panino. Ma che destino, ma che destino, ma che destino, ma che destino. Lezione già ripresa, ripresa, ogni ora più penosa, penosa, e più seccante, più noiosa, in attesa ormai angosciosa del sognato mezzodì, del mezzodì, del mezzodì. E lunedì, e martedì, e tutti i dì siamo sempre qui. E lunedì, e martedì, mercoledì, e giovedì, e venerdì siamo sempre qui. E lunedì, e martedì, mercoledì. L'associazionismo magistrale, ma anche nella scuola secondaria, rinasce e comincia a tematizzare anche in maniera nuova il significato e il ruolo della scuola e dei insegnanti. Che ruolo dovevano avere gli insegnanti nella scuola della Repubblica e nella scuola della Costituzione, quindi nella scuola della democrazia, della libertà di insegnamento. Manzi non partecipa a questa forma di associazionismo. Lui dirà di essere un cane sciolto. Il termine ha una locuzione interessante, affascinante, ma si colloca comunque in questo clima di richiesta di che cosa? Di saltare di la scuola tradizionale e di fare qualcosa di nuovo. Quel qualcosa di nuovo lui probabilmente ci arriva per strane strade, perché Manzi è sì maestro, ma è anche scrittore per ragazzi, è anche scrittore di libri di testo, è anche giornalista sul Vittorioso, è poeta, è autore e anche personaggio televisivo, quindi ha una pluralità di azione culturale, politica e anche proprio di... è a sé, completamente diverso, sganciato per certi aspetti dagli altri anche solo prima menzionati, Brumario Lodi, Bruno Ciari, eccetera. E questi caratterizzati anche da un forte impegno politico, che in Manzi è meno evidente, meno partitico, e quindi Manzi si caratterizza come il maestro. È proprio questa è la sua avventura che riguarda l'avventura di tutti i maestri, qui abbiamo anche un maestro direttrice didattica, questa avventura di lasciare il certo, il noto, perché si è stanchi del certo, del noto, che rassicura ma in fondo ti imbriglia e ti costringe, e specialmente allora imbriglia e costringe i bambini, gli alunni. La sua avventura comincia in particolare con questa vita molto insolita, perché intanto si iscrive contemporaneamente all'Istituto Magistrale a Roma, era romano di nascita, e poi all'Istituto Nautico, perché lui voleva fare il capitano di un nuovo corso. Terminata la guerra, inizia il suo lavoro in una scuola un po' particolare, perché era il carcere minorile, quindi... che ha un nome però, a mio avviso, magari dopo ritorneremo, un nome importante secondo me nella sua formazione, nella sua vicenda, che è Aristide Gabelli. In questo carcere fa un'esperienza particolare, perché lui non ci voleva andare, come capita spesso, e ci è capitato e si è ritrovato a dover conquistare l'autorevolezza davanti a questi 90 carcerati, e quindi minorenni, facendo a cazzotti. L'autorevolezza, questo è un altro tema ad esempio pedagogico, la differenza autorità-autorevolezza, come si conquista, lo fa facendo a cazzotti con il capo. Dopodiché comincia a costruire qualcosa di assolutamente nuovo. Questa esperienza segue poi l'esperienza delle scuole rurali, e finalmente entra poi nella scuola come insegnante di ruolo, dove rimane sostanzialmente per 30 anni. Attraversa quest'Italia degli anni 50, con i programmi didattici del 1945, che nel 55 vengono sostituiti da nuovi programmi ispirati sia alla democrazia ma anche all'attivismo pedagogico cristiano, che ovviamente c'era la DC in quel momento al potere, che rimangono in piedi fino all'85. Programmi, potrei dire, in cui c'era anche una grande libertà paradossalmente lasciata agli insegnanti, cioè a fronte dei vincoli culturali delle scuole, eccetera, l'insegnante come maestro unico, con la mediazione e a volte con i litigi, con la direzione didattica, eccetera, poteva anche in qualche modo scegliere la sua impostazione. E Alberto Manzi questa possibilità se la prende sempre tutta, nella sua anche organizzazione didattica, che è molto particolare, sottolineata in particolare dai volumi degli ex allievi, cui loro raccontano come era il maestro, come era l'attività didattica, che costituiscono anche una fonte, per quanto le fonti orali siano anche discutibili, una fonte interessante. In questi anni dell'analfabetismo, dei programmi didattici del 45 e del 55, lui inizia a lavorare nel 60, al 68 con appunto la TV e con le mai troppo tardi. E questa strada è aperta, mi dice in maniera casuale, ma sicuramente anche da legami con un personaggio di nome Nazareno Padellaro, che era un personaggio molto importante nelle vicende scolastiche italiane, che rappresenta anche qui una di quei personaggi che attraversano il fascismo. Durante il fascismo aveva avuto un ruolo importantissimo, perché era legato, insomma, Gentile con gli appuntai, aveva avuto autore di libri di testo, eccetera. Attraversa e supera l'epurazione e si ritrova a dirigere con Bonella il ministero e coglie l'importanza di un mezzo nascente che era la TV. Basta una parola per aprire un mondo nuovo davanti a noi. Ebbene, cosa vogliamo fare adesso insieme, da questa prima sera che ci troviamo tutti insieme? Proprio conoscere il significato di questi segni. Ora, se io scrivo questa parola, voi ora non mi potete comprendere. Non sapete cosa ho scritto, ma ora non sapete cosa ho scritto. Fra pochi giorni, fra poco tempo, potremo leggere questa e mille altre parole. Ecco il significato di quello che io ho scritto con questi tre segni diversi. E così Alberto Mandi disegna alla lavagna una vite con tanti chicchi d'uva, dando così significato alla parola misteriosa che aveva scritto sulla lavagna stessa, perché Mandi si avvaleva tra l'altro di essere un grande disegnatore e lo sfruttava al meglio per comunicare la sua lezione. Nell'evoluzione del fumetto italiano negli anni 50 e 60 del secolo scorso, vediamo che ci sono elementi che anche provengono da altri generi letterari e cinematografici. Partiamo da un esempio molto noto, che è la collana che racconta le vicende di Grande Black della S. Jess. E in una di queste storie si racconta che il biondo trapper arriva in un piccolo villaggio in una costa dove gli abitanti sono spariti, gli uomini, e tutti hanno timore di una nave governata dai fantasmi. Ecco, tutto questo richiama poi dopo l'avventura di Black, che andrà comunque alla ricerca della verità e troverà un gruppo di pirati al cospetto di una affascinante giovane donna che si presenta come la capitana di questa ciurma. Naturalmente il riferimento è da una parte al mito dell'olandese volante del folklore nordico, ripreso dall'opera lirica di Wagner del 1840, e quella appunto del vascello fantasma che solca i mari con gli spettri, insomma, per cercare le persone, mettersi in contatto con i viventi. Ma il secondo elemento importante è la presenza femminile al vertice di queste ciurme di pirati, che rimanda al famoso romanzo di Emilio Salgari, Yolanda, la figlia del capitano nero, dove appunto la protagonista è un'indomita fanciulla nel mondo di uomini rudi. E vediamo che questa figura di Yolanda racconta peraltro le vicende di due avventuriere del XVIII secolo, Mary Reds e Anne Bonny, che erano due donne dai metodi assai poco femminili, perché appunto la Anne Bonny, nata nel 1697 e morta nel 1782, era una ragazza di origini irlandesi che aveva abbandonato il marito marinaio per seguire il pirata Jack Rackman, detto Calico Jack, e intraprende con lui le varie scorribande nei Caraibi, E nel frattempo, appunto, la Mary Red, che si faceva chiamare Mark e vestiva abiti maschili per solcare i mari sulle golette dei pirati, poi combatte prima per la marina inglese e poi quando la nave appunto viene catturata da Jack Rackman e dalla sua compagna Anne Bonny, Mary decide appunto di darsi con loro alle azioni piratesche. Le due donne formano una coppia poi formidabile. Si narra che Mary Red alla fine di una battaglia ucciderà tutti coloro che non avevano combattuto da veri uomini, e fino alla morte di Rackman, che viene impiccato a Port Royal insieme a tutti i suoi marinai e ai pirati, solo le due donne sfuggiranno alla pena capitale perché erano entrambe incinte. E insomma, da queste vicende, anche riguardo al cinema, abbiamo diversi riferimenti, no? Negli anni 50. C'era questo fascino delle donne pirata, già da Hollywood con il film di Jacques Tourneur, La regina dei pirati, ma anche il nostrano Yolanda, la figlia del corsaro nero, di Mario Soldati, con May Britt, che è un giovanissimo Renato Salvatore, famoso poi per I soliti ignoti. E poi ancora nel 1960 Mario Costa che realizza La Venere dei pirati. Quindi continua insomma questo filone, in cui appunto in questo caso c'è l'attrice Gianna Maria Canale che interpreta la sensuale capitana Sandra appunto a capo dei pirati. Ma tornando appunto ai fumetti, vediamo che negli anni 60, e quando poi il fumetto diventa appunto interessa a un pubblico adulto, gli editori, si accorgono delle potenzialità erotiche del personaggio di Salgari e danno vita a eroine senza paura, spesso prive anche degli abiti. Per esempio, nel 1970, il Furio Viano Editore dà alla stampa appunto Iolanca, sceneggiata da Luigi Naviglio e per i disegni di Pietro Gamba. E poi successivamente, pochi mesi dopo, ci sarà Yolanda de Almaviva, pubblicata da casa editrice RG di Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon, e i testi sono firmati da Roberto Renzi e i disegni di Armando Bonato per i primi 12 albi e poi Mino Manara, che aggiunge sicuramente, nelle serie che continuano fino al numero 62, uno stile grafico, insomma un valore aggiunto, senz'altro. E quindi quando nel 1976 poi Iolanca, conclude le avventure, Luigi Naviglio crea invece una serie dal titolo La Corsara Nera e ancora il riferimento è all'opera di Salgari, ma il nuovo fumetto comincia a sfociare in un erotismo sempre più dichiarato. Editore è la MEC di Silvano Vianello. Gli autori dei disegni sono Vieira, Leone, Milano, De Ferrari, Ardigò, e che poi sono lo staff di IF, ma la testata durerà fino al 1980, quindi con 107 numeri, quindi un certo successo, ma possiamo dire che sicuramente si sono di molto allontanati dai tempi della bella capitana del veliero nero, della S. Gesse, e quindi la sua immagine si è ormai sbiadita, sostituita da eroine molto meno romantiche e ben più intraprendenti. Ecco, con questa, diciamo, spaccato, vediamo poi la trasformazione, di questo filone, diciamo, della pirateria al femminile. Chi non si arruola finisce in fondo al mare. Finanche i più convinti, finanche i più decisi, attenti e stretti si sono tutti arresi. Tu invece sei la sola che va così sicura sul trampolino di Capitanuccino. Ma dimmi come fai a non aver paura, o sei incosciente oppure sai che è un sogno che non dura. Com'è sei bravo a raccontare, ad inventarti quelle avventure, sembrano vere. Che fantasia che hai, continua il tuo racconto, mi sembra di vederti al punto giusto, lui arriverà a salvarti. Tutte le tue avventure son belle da sognare, però nei sogni non ti puoi rifugiare. Non vedi il tempo corre e non lo puoi fermare, diventi grande e ti vogliono cambiare. E questo ti spaventa, i grandi sono strani, fanno paura più dei pesci cani. Ma proprio adesso ti vuoi fermare, non ti interessa di far vedere se è proprio vero che non ti arrendi mai. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima. Thank you.